Radio 24 Reportage. È notte fonda a Calais. Sono nascosto dietro una siepe di fronte al gigantesco porto della cittadina. Tre ombre strisciano accanto a me. Attendono che l'auto della polizia sia passata. Poi una di loro parla. Mi chiamo Robel. Sei eritreo? Sì. Quanti anni hai? Ho 23 anni. Siamo di fronte al porto, qui c'è una rete da scavalcare. Sì, sì. Di là della rete ci sono dei camion che vanno in Inghilterra. Sì, vanno in Inghilterra. Per tutti qua, siamo qui, egiziano, eritreano, un altro paese, per cambiare vita. In Italia non abbiamo. Abbiamo un documento di 3 anni, asilo politico, è un humanitarian, societarian, ma non possiamo lavorare più. Con documento sempre dormitorio. Anche non c'è casa, non c'è fisso lavoro, così. Sempre troppo male. Non... E quindi tu speri di adesso, sì, di saltare questa rete? Sì, di saltare infilarti questa in un rete, camion? C'è tanti camioni per... Inghilterra? Sì, andare in Inghilterra. Noi nascondiamo dentro un camion. Poi per cambiare vita in Inghilterra, meglio. Hai paura? Niente paura, perché no? sì, io non ho paura. 24 ore io fermo qui per scappare, guardare quale meglio posto per entrare qui sul, dentro. Come scegli il camion? Come fai a sapere che vai in Inghilterra? Sì, quando noi entriamo dentro a porto c'è tanti camion, c'è una etichetta. Destinazioni anche, come si chiama, arriva. Ok. Quindi noi guardiamo lì, questa destinazione arriva dove, da dove vieni, da dove e arriva. E dove va? Ok. Quindi arriva in UK, London. Deliver in UK. Ok. Noi entriamo lì. E voi entrate, per fortuna, entrate dentro al camion? Dentro o camion. Sotto? No, dentro, dentro camion. Non dentro sotto. Carica, come carica. Ok. Come merce? Come merce? Sì, come merce dentro casa. Siete come merce? Sì. Tu hai provato a cercare lavoro in Italia, ma non sì, c'era? Sì, sì, sì, sì, tanto, tanto. Io stanco, in Italia stanco, dappertutto. Qualcuno lavora senza documento, qualcuno lavora con documento, non c'è lavoro. Anche sempre dormitore. C'è un progetto... Tu stavi a Milano? Milano dappertutto, in Italia io conosco di più un italiano, perché per cercare lavoro cammino tanto, tanto, tanto, in everywhere place. E in Eritrea cosa facevi? Militare, armati militari, national service, national service unlimited, non c'è un limite. Per cambiare vita io sono arrivato in Italia nel 2006. Sì. Poi 2006 fine stato, fine metà 2008. Sempre una cosa, tu vedi una cosa, sempre vai al dormitorio, dormi, mangi, torni a casa, così. Non c'è possibilità di lavoro, per hanno un documento in Italia. Andate d'accordo, ad esempio, voi eritrei con gli arabi, con gli afghani? Sì, con... per esempio, io conosco 6 lingue, con inglese, con arabo, con italiano, con altro, qualcuno persona, io conosco la sua lingua, per esempio. Un altro con persone, quando viene, conosco un'altra persona, cosa parli, cosa... quindi non c'è problema di lingua. E sai quando parte la nave? No, io non lo so quando parte, ma fra 24 ore devi partire fino a questo porto. Un camion non ferma di più 24 ore. Io ma tu hai con te acqua, cibo, hai qualcosa? Niente, senza niente. Fino a 48 ore posso stare senza mangiare anche. Non c'è problema. Perché io stare senza mangiare 24-48 ore, per me è una visione per altro vita. Dopo c'è una meglio vita, io vedo una questa visione, si dice visione. Sei credente? Cosa vuol dire credere? Credi in Dio? Credi in Dio. Mm-hmm. Sei cristiano? Sì, cristiano. Sei cristiano ortodosso. Dio ti aiuterà stasera? Sì, sì, devi sempre Dio con me. Perché Dio piace per tutti, per fare una meglio cosa. Noi non facciamo una brutta cosa per una cosa male. Non è per cambiare vita, questa Dio aiuta per noi. In bocca al lupo, buona fortuna. Ok, crespi. Crepi? Crepi bocca al lupo. Crepi il lupo. Crepi il lupo. Alle 18, in uno spiazzo nell'area industriale della città vicino al porto, si distribuisce il secondo pasto caldo della giornata. Joël, volontario della Belle Étoile, una delle tre associazioni che assistono i migranti a Calais, cerca di dirimere le liti fra africani e afghani riguardo alla fila per mangiare. C'è sempre qualcuno che tenta di fare il furbo e passare davanti agli altri. La situazione per i migranti è sempre la stessa. Arrivano qui di fronte all'Inghilterra senza passaporto e noi siamo qui per aiutarli con i mezzi che abbiamo a disposizione. Comunque la quasi totalità di loro è qui per passare in Inghilterra. Che rapporto c'è fra i migranti e la città di Calais, se esiste un rapporto? Le rapporto tra i migranti e la ville di Calais per elle-même, vuol dire. Calais è la città più vicina per chi vuole passare in Inghilterra. Qui ci sono traghetti regolari, per cui si sa che quando partono dal loro paese arrivano qui, che non è una destinazione finale. Diciamo che ci sono quelli che non hanno niente contro. E c'è gente che non li sopporta, insomma, è un po' come dappertutto. Ad alcuni danno fastidio, ad altri no. È una situazione bilanciata, direi. E come vede lei, Joël, il futuro? Non lo vedo il futuro, perché tutti i giorni è la stessa storia. Quindi non vedo alcun futuro e alcuna soluzione per questo problema. Ma non è una questione che riguarda solo Calais. Riguarda tutte le città della costa francese qua attorno, da dove partono i battelli per l'Inghilterra. E riguarda tutta l'Europa, finché ci saranno guerre o sistemi totalitari, o condizioni di povertà o tortura. Ci sarà gente che vuole fuggire per trovare un'alternativa. A Calais, in una città in cui la disoccupazione è al 14% e 6.000 francesi su 75.000 vivono col salario minimo garantito, la presenza dei migranti può essere un detonatore di conflitti sociali. Ma a Calais non c'è solo il porto e la jungle. In una vecchia fabbrica dismessa vicino alla stazione dei treni, alcune centinaia di africani cercano di sopravvivere come possono, sempre in attesa di imbarcarsi. Non piove dentro, è vero, ma il capannone è diventato una vera e propria discarica. Uomini, donne e bambini dormono sopra tonnellate di immondizia. Il fetore in alcuni punti è insopportabile, misto alla puzza di fumo dei fuochi accesi all'interno della fabbrica per scaldarsi e cucinare. Parlano poco e a fatica tanti eritrei presenti, benché spesso conoscano l'italiano. Hanno vissuto nel nostro paese, magari per anni. Si vergognano di essere riconosciuti dagli amici rimasti in Italia. Non vogliono far sapere in che condizioni vivono qui, a Calais. Dormono vicini, stesi su materassi di fortuna, d'inverno stretti l'uno all'altro per combattere il freddo. E aspettano. Aspettano la notte giusta e il camion giusto. Noi qua siamo davanti a... la chiamano African House. African House. African House, qua a Calais. E siete 300, 400 africani. Tutti 400, 300 così. È una fabbrica abbandonata e siete in tantissimi, vivete qui. E tu vieni dal Sudan? Sì, Sudan. E quanto tempo è che sei qua a Calais? Calais uno mese così. Un mese? E speri di andare a Londra? Inghilterra? Inghilterra. Inghilterra. Perché Inghilterra? Sudan è guerra. E speri di trovare lavoro? Inghilterra? Non lo so. Così, tra speranze e illusioni, una partita di pallone nel cortile del capannone e una sigaretta, i giorni francesi all'African House scorrono lenti e monotoni, fino al tramonto, quando i ragazzi, a gruppi, si vestono, si preparano e vanno al porto per tentare la fortuna. Provano in poche decine ogni notte. A farcela, al massimo, sono in due o tre. Le maglie dei controlli sono fitte più che mai. La polizia, poi, visita uno o due volte al giorno la vecchia fabbrica per compiere piccole retate, per fare i controlli. Preleva una decina di migranti e li porta alla centrale per l'identificazione. Normalmente dopo 24 ore sono di nuovo liberi, spesso con un foglio di via in mano, che non verrà mai rispettato. Monique è un'altra volontaria delle associazioni che aiutano i migranti. E dunque, il y a trois associations qui interviennent de manière d'urgence, d'aide d'urgence. L'impressione è di svuotare il mare con un cucchiaio. Ci sono tre associazioni a Calais che lavorano per i migranti, diciamo in casi d'urgenze, e poi altre ancora che cercano di far funzionare l'intera macchina. Non c'è una volontà da parte dello Stato francese di far fronte a questo problema. Preferiscono dire che il problema non esiste. E in più, non c'è una volontà europea di armonizzare l'accoglienza dei migranti. Non si può impedire a un uomo di partire e lasciare il luogo in cui si trova. Qui non si accolgono documenti, carte d'identità. Qui si accolgono esseri umani. E finché non si parla di questo, non si mette a fuoco il problema. Si riduce la loro situazione a un problema di documenti o senza documenti. Finché non si porrà la questione in termini di accoglienza, in termini di formazione, di come fare a dare a questi uomini un avvenire in termini di umanità, non si arriva al cuore del problema. Prima c'era Sangatte, che era un luogo d'accoglienza che aveva i suoi limiti, su questo siamo d'accordo, e che era anche un luogo dove c'era traffico di esseri umani, coi cosiddetti passeurs. Ma si è chiuso Sangatte e non si è riflettuto su cosa mettere al suo posto, come se i migranti non venissero più. Adesso, per esempio, a Calais hanno chiuso l'ospizio, ma prima di chiuderlo e di mettere le persone anziane sulla strada, hanno costruito un nuovo ospizio, gestendo così la salute degli anziani. Lì invece hanno chiuso Sangatte e hanno detto: «I migranti non ci sono più». Sangatte non era forse una buona risposta alla questione dei migranti. Ci sono di certo risposte locali, ma soprattutto europee. Ma non ci si pensa. D'autres réponses, il y a des réponses encore une fois qui sont locales, mais il y a surtout des réponses qui sont européennes et ça on n'y a pas pensé du tout. Le domande sono tante, le risposte spesso tardano. La questione immigrazione richiede una politica di sistema da parte dell'Europa. Dal sud e dall'est del mondo si continua a partire. Le reti e i controlli non fermano né fermeranno i migranti. Da alcuni mesi l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha aperto un ufficio qui a Calais per informare i potenziali richiedenti asilo su tempi e modalità. La disinformazione è la norma, quasi nessun immigrato conosce i propri diritti e i propri doveri. Le cronache raccontano nel frattempo, tra le centinaia di tentativi di ingresso irregolare nel Regno Unito, di sempre più frequenti sparizioni di barche dal piccolo porto turistico. Motoscafi o addirittura piccoli pescherecci lasciano nottetempo la rada. Alcuni mesi fa un guardiacoste britannico ha raccolto una decina di afghani che di fronte alla costa inglese tentavano senza successo di governare la barca rubata poche ore prima. Venivano dalle regioni montuose di Helmand. Non sapevano reggere il timone di una barca, né nuotare. Le bianche scogliere di Dover mai erano state così vicine, eppure così lontane.